Tutto è nato parlando con gli amici. Domenica ero alla pasta asciutta antifascista dell'Ampi di Bagnacavallo, quindi ne parlavo con degli amici, ne parlavo in particolare con la mia amica Silvia, e si diceva: ma è una roba veramente pazzesca pensare che ci sia la Notte Rosa in Riviera e non sia consentita una manifestazione alla quale i bolognesi tengono, credo, sopra ogni altra cosa. E poi in particolare siamo al quarantennale e ci sembrava veramente una cosa inaccettabile, soprattutto perché poi alla fine qualcosa fanno, però sembra quasi una cosa ristretta. Insomma, in Piazza Maggiore c'è qualcosa, poi ci sono tutte queste cose delle stazioni multimediali, non si capisce neanche bene cosa, ma insomma Bologna il 2 agosto significa corteo per non dimenticare, insomma. E quindi si diceva: vabbè, dai, ci mettiamo d'accordo, domenica mattina alle 9 ci troviamo e con un fiore andiamo a piedi noi da Piazza Maggiore alla stazione e portiamo il fiore davanti alla lapide delle vittime, insomma. Poi ieri sera così l'ho buttata lì e ho fatto un post su Facebook taggando un po' di persone, sperando che, insomma, che non fossimo solamente in 3 o 4 gatti. E quindi tutto qui, insomma. Continuo a pensare che non sia accettabile una cosa del genere e continuo però anche a sperare che ci possa essere un cambio di programma da parte delle istituzioni, insomma. Ovviamente anche l'associazione dei familiari delle vittime non è entusiasta dai cambiamenti annunciati con la giustificazione delle norme sanitarie. Tu però, come sottolineavi prima, dici: beh, ma altre manifestazioni, forse anche più popolate, più dove c'è più assembramento, sono consentite. Ma certo, ma poi c'è stata, per dire, in Piazza Maggiore è molto di recente la manifestazione Black Lives Matter, e quella non ha avuto nessun tipo di ostacolo, insomma. Quindi mi viene da pensare che ci possa essere qualcosa sotto, cioè vabbè che siamo ormai, il complottismo è roba di tutti i giorni, però non ci sono delle cose che sono ben più rischiose anche dal punto di vista sanitario, appunto, non ultima, voglio dire, la Notte Rosa. Le celebrazioni del 2 agosto a Bologna hanno avuto sempre un impatto fortemente emotivo, anche con il minuto di silenzio interrotto dai suoni, dai fischi del locomotore. Tra l'altro, proprio sul minuto di silenzio non si capisce ancora bene dove si terrà, se si terrà in Piazza Maggiore secondo il programma oppure con i familiari in stazione. Quindi insomma è un appuntamento anche emotivo in un certo senso per i bolognesi. Ma assolutamente, quel minuto c'è, proprio ti viene il groppo alla gola tutte le volte, nonostante da anni siamo lì. Cioè, questo significa che non ci si abitua alla commemorazione, è una, ogni volta si rinnova questo strazio, insomma. Se tu vai in rete, io ho cercato, ma diventa veramente difficile anche raccogliere informazioni su quali sono le celebrazioni alternative. L'unica cosa chiara è questo crowdfunding con la vendita di questi braccialettini, orologi con l'orario stampato sopra delle 10:25, che, voglio dire, è brutto dirlo, però sembra quasi che una roba come la commemorazione del 2 agosto si riduca a una questione meramente economica. Cioè, io quando ho letto questa cosa ho pensato a questo: ma come? Cioè, una raccolta fondi poi per che cosa? Per realizzare appunto le stazioni multimediali o che cosa? E poi alla fine non si fa quello che invece secondo noi più conta. Quindi la vostra proposta qual è? Ma la mia proposta, ma molto modestamente, è quella di, siccome poi domenica la T è chiusa, quindi è pedonale, la proposta è quella di trovarsi come al solito in piazza Nettuno, insomma, lì all'inizio di via Indipendenza, e chi c'è, e poi dopo anziché camminare per andare a vedere le vetrine di Zara, camminare fino alla stazione tutti insieme e portare un fiore davanti alla lapide che ricorda le vittime della strage. Tutto qui. Ovviamente non si potranno avere striscioni, perché comunque sennò dopo acquisterebbe i connotati di una manifestazione non autorizzata, però io penso che i singoli individui possano tranquillamente camminare in via Indipendenza con un fiore in mano insieme, anziché appunto passeggiare per divertimento, fare questa cosa che in qualche modo ricorda il corteo del 2 agosto. L'intento non è né essere contro qualcos'altro e neanche voler fare, che ne so, non lo vedo neanche forse come un atto di disobbedienza civile, lo vedo proprio come la risposta risposta a un bisogno che tanti cittadini bolognesi hanno, quello di partecipare alla commemorazione, in particolare al quarantennale, insomma. Quindi lo vedo fatto solo così, cioè non è né una provocazione né chissà che cosa, capito? Tutti sono i benvenuti, cioè, anzi, tutti insieme. Io ci vado con una mia amica, poi dopo spero di incontrare tante persone che conosco.